Libro settimo. Morta era ormai l'adolescenza mia cattiva ed empia, e già andavo verso la piena giovinezza. Quanto maggiore d'età, tanto peggiore per vanità, incapace com'ero di pensare una qualche sostanza diversa da quella che si vede con questi occhi. Non ti pensavo più, Dio, sotto forma di corpo umano. Da quando avevo cominciato a intendere qualcosa della sapienza, questo l'ho sempre evitato. E mi rallegravo di aver ritrovato questa stessa concezione nella fede della madre nostra spirituale, la tua Chiesa cattolica. Ma come altrimenti pensarti, non lo sapevo. E io, uomo, e quale uomo, mi sforzavo di pensarti sommo e solo e vero Dio, e con ogni fibra della mia ti credevo incorruttibile, inviolabile, immutabile, giacché pur ignorandone la causa e il modo, capivo facilmente ed ero certo che ciò che è corruttibile è peggiore di ciò che è incorruttibile, e ciò che è inviolabile non esitavo ad anteporlo a ciò che è violabile, ed ero convinto che ciò che è mutabile è peggiore di ciò che è immutabile. Gridava il cuore mio a gran voce contro tutti i miei fantasmi, e in tal modo cercavo di allontanare d'un solo colpo, dalla vista della mia mente, la turba impura che le sciamava attorno. Ma appena scacciata, ecco che in un batter d'occhio si ripresentava compatta e s'avventava contro il mio sguardo e lo offuscava, costringendomi a pensare, anche se non in forma di corpo umano, qualcosa di pur sempre corporeo, collocato nello spazio, o incluso nel mondo, o anche diffuso nell'infinità, al di fuori del mondo, poiché ciò che toglievo da tali spazi mi sembrava essere nulla, un nulla totale. Non un semplice vuoto, come quando si toglie un corpo da un luogo e rimane il luogo svuotato d'ogni corpo, sia esso di terra o d'acqua, aereo o celeste, che è pur sempre un luogo vuoto, quasi un nulla, spazioso. E dunque con la mente ottenebrata, oscuro io stesso a me stesso, qualsiasi cosa non si estendesse per un certo spazio, o non si espandesse, o non si addensasse, o si gonfiasse, o non assumesse una tale proprietà, o non potesse assumerla, ero convinto che neppure esistesse. Le forme, infatti, attraverso cui si muovono i miei occhi, erano le stesse immagini attraverso cui si muoveva la mia mente, e non vedevo che l'attività stessa con cui formavo quelle immagini non era della loro medesima natura. Eppure non l'avrebbero nemmeno formate se non fosse stata qualcosa di grande. E così anche te, vita della mia vita. Io pensavo grande, tanto da penetrare da ogni parte, attraverso gli spazi infiniti, l'intera mole dell'universo, e anche oltre, in ogni direzione, nell'immensità senza fine, per modo che ti avesse la terra, ti avesse il cielo, tutto ti avesse, e tutto in te terminasse. E tu, invece, in nessun luogo. Ma come alla luce del sole non soppone la consistenza dell'aria che è sulla terra, impedendole di attraversarla penetrandola senza lacerarla o spezzarla, e bensì tutta colmandola, ecco, così credevo che la consistenza non solo del cielo, dell'aria o del mare, ma anche della terra ti fosse percorribile in ogni sua parte, massima o minima, penetrabile, per accogliere la tua presenza, soffio misterioso, che di dentro e di fuori tutto governa ciò che tu hai creato. Così congetturavo, non potendo pensare altrimenti. Ma sbagliavo. Giacché secondo quel criterio, una parte maggiore della terra dovrebbe contenere una parte maggiore di te, una minore, e tutto sarebbe colmo di te in modo tale che il corpo d'un elefante conterrebbe una parte di te più grande che quella di un passero, solo per il fatto d'essere più grande ed occupare più spazio, più grande. E così tu, sminuzzandoti, rendessi presenti le parti tue in quelle del mondo, le grandi nelle grandi, le piccole nelle piccole, ma non è affatto così. Ma tu non avevi ancora illuminato le mie tenebre. Ma pur dichiarando e fermamente credendo incontaminabile e inalterabile e in nessuna sua parte mutabile te, nostro Signore, Dio vero, che hai fatto non solo le nostre anime, ma anche i nostri corpi, e non solo le anime e i nostri corpi, ma tutti gli esseri e tutte le cose, ecco, io ancora continuavo a non avere una spiegazione piana e certa della causa del male. Qualunque essa fosse, in ogni caso, io sapevo di doverla cercare, in modo tale da non essere poi costretto a ritenere mutabile Dio immutabile, per non diventare io stesso ciò che cercavo. Così la cercavo, sicuro, nella certezza che non fosse vero quanto affermavano coloro che aborrivo con tutta l'anima, poiché li vedevo cercare la causa del male, ricolmi di malizia, disposti financo a supporre che la tua sostanza possa subire il male, piuttosto che siano loro a farne. E cercavo di cogliere il senso di ciò che sentivo dire, che il libero arbitrio della volontà fosse la causa del male che facciamo, e il tuo retto giudizio la causa di quello che subiamo. Ma non riuscivo a distinguerla con chiarezza, e così, sforzandomi di far emergere dall'abisso lo sguardo della mente, affondavo nuovamente, e più ritentavo, più e più affondavo. Mi sollevava, tuttavia, alla tua luce, la coscienza di avere una volontà tanto quanto quella di essere vivo. Se perciò volevo o non volevo qualcosa, ero certissimo che a volere o a non volere non ero altri che io. E piano piano m'avvedevo che era qui la causa del mio peccato. Se invece facevo qualcosa mio malgrado, vedevo che io, più che farlo, lo subivo e la consideravo non una colpa, bensì una punizione che giustamente m'era stata inflitta. Ma poi dicevo, chi mi ha fatto? Non forse il mio Dio? Che è non solo buono, ma la bontà stessa. Da cosa dunque viene questo mio volere il male e non volere il bene? Chi ha posto in me e seminato questo vivaio d'amarezza? Se tutto provengo dal mio Dio dolcissimo, se è stato il diavolo, da dove viene un diavolo siffatto? E se anche egli è diventato diavolo, da angelo buono che era, per un atto di volontà perversa, da dove gli è venuta questa volontà malvagia di diventare diavolo, dal momento che era stato fatto tutto angelo, da un creatore sommamente buono? A questi pensieri io mi abbattevo una volta di più e soffocavo. Ma non mi lasciavo trascinare fino a quell'ultimo inferno dell'errore dove nessuno ti confessa e dove si preferisce fare te soggetto al male piuttosto che l'uomo capace di farlo. Cercavo dunque di scoprire anche il resto, così come già avevo scoperto che l'incorruttibile era meglio del corruttibile. Nessun'anima, infatti, ha mai potuto né potrà mai pensare qualcosa che sia migliore di te, che sei il sommo, no? E perfetto bene. Poiché dunque l'incorruttibile in tutta verità e certezza è da anteporsi al corruttibile, avrei potuto arrivare a concepire col pensiero qualcosa di migliore del mio Dio se tu non fossi stato appunto incorruttibile? Dove dunque vedevo che l'incorruttibile era da anteporsi al corruttibile, là avrei dovuto cercarti e là osservare dov'è il male, cioè da dove nasce la corruzione stessa, da cui la tua sostanza non può essere in alcun modo violata, no? La corruzione non può assolutamente violare in alcun modo il nostro Dio, né per volontà, né per necessità, né per caso imprevisto, perché è Dio. E ciò che vuole per sé è bene. Lui stesso è bene. E non è bene essere soggetto a corruzione. Non ti si può spingere a qualcosa contro voglia, poiché la tua volontà non è maggiore della tua potenza. Sarebbe maggiore se tu fossi maggiore di te stesso. La volontà, infatti, e la potenza di Dio sono Dio stesso. E che cosa può riuscire imprevisto a te che tutto conosci? E non c'è natura se non in quanto la conosci. Ma perché tante parole per spiegare che non è corruttibile la sostanza che è Dio dal momento che se così fosse non sarebbe Dio. Cercavo dunque la causa del male, ma cercavo male e non vedevo il male nel mio stesso cercare e dispiegavo dinanzi agli occhi del mio spirito l'intero creato. Tutto ciò che in esso riusciamo a scorgere, come la terra, il mare, l'aria, le stelle, gli alberi, gli animali mortali, e tutto ciò che in esso non vediamo, come il firmamento del cielo superiore, e tutti gli angeli, e tutti gli altri suoi spiriti. Ecco, ma anche questi, la mia immaginazione, li distribuiva, no? In vari luoghi, quasi fossero corpi. E della tua creazione facevo un'unica grande massa di corpi distinti, secondo il genere, no? Sia quelli che erano realmente corpi, sia gli spiriti che erano corpi solo nella mia immaginazione. E me la figuravo grande, no? Non quanto era, ciò che non potevo sapere, ma così, a piacere. E comunque finita, no? Da ogni parte. E te, Signore, che da ogni parte l'avvolgevi e la penetravi come, ecco, come un mare, no? Che fosse dappertutto. Un unico e solo mare che per immense distese da ogni parte infinito e che avesse dentro di sé una spugna, grande quanto si voglia, ma pur sempre finita. E tale spugna fosse appunto imbevuta in ogni sua parte dell'immenso mare. Così credevo il tuo creato, finito e pieno di te infinito. E dicevo, ecco Dio, ed ecco le cose che Dio ha creato. Un Dio buono, certamente è di gran lunga superiore ad esse, pure essendo buono le ha create buone, ed ecco com'è che le avvolge e le colma. E dov'è dunque il male? E da dove? E per dove s'è insinuato qui? Qual è la sua radice? Quale il suo seme? Oppure nemmeno esiste? Beh, allora perché temere e guardarsi da ciò che non esiste? E se temiamo a vuoto, il timore stesso è certamente un male che vanamente ci punge e tormenta il cuore. Un male tanto più grave in quanto non c'è nulla da temere. Eppure temiamo. E dunque, o c'è un male di cui temere, oppure il male è proprio nel temere. E ma allora da dove viene il male, se Dio è buono e ha fatto ogni cosa buona? Bene superiore, bene sommo, egli ha fatto senza dubbio cose buone inferiori, e tuttavia buono è il creatore e buone tutte le creature, e da dove viene il male? Forse ciò con cui le ha fatte era una materia cattiva? Egli l'avrebbe plasmata e ordinata, ma lasciando in essa qualcosa, no, che non ha mutato in bene? E ma perché questo? Era forse impotente a mutarla e a trasformarla tutta, senza lasciarvi traccia di male, lui che è onnipotente? E infine, perché avrebbe voluto servirsi di una tale materia e non piuttosto della propria onnipotenza per annientarla del tutto? Forse che quella poteva esistere contro la sua volontà? E se era eterna, perché l'avrebbe lasciata sussistere tanto a lungo, su per infiniti spazi di tempo, e solo tanto tempo dopo si sarebbe deciso a farne qualcosa? O anche, volendo agire subito, perché non avrebbe agito egli, onnipotente, in modo da annientarla, rimanendo egli solo, unico, vero, sommo e infinito bene? E se invece non era bene che chi era buono non creasse a sua volta e fondasse qualcosa di buono, non avrebbe dovuto scartare e annientare la materia cattiva ed istituirne egli stesso una buona con cui creare ogni cosa? Non era certo onnipotente se non poteva creare niente di buono senza ricorrere a una materia non da lui stesso creata. Ecco, io questi pensieri rigiravo nel mio petto infelice, oppresso da affanni mordacissimi, perché temevo la morte e non trovavo la verità. E così, mio soccorritore, mi avevi sciolto da quelle catene, ma ancora cercavo l'origine del male e non ne uscivo. Che tormenti allora per il mio cuore in travaglio, che gemiti, Dio mio! E lì c'erano le tue orecchie, anche se non lo sapevo. E quando in silenzio cercavo con tutte le mie forze, alte voci si levavano verso la tua misericordia, tacite invocazioni del mio animo contrito. Ecco, tu sapevi quanto soffrivo, ma tra gli uomini nessuno. Ma tu, Signore, rimani in eterno, e non ti adiri in eterno contro di noi, poiché hai avuto pietà della terra e della cenere, ed è piaciuto al tuo cospetto ridare forma alle mie deformità. E con pungoli interni tutto mi agitavi, affinché non mi dessi tregua fino a che non ti fossi presentato con certezza al mio sguardo interiore. E si sgonfiava la mia enfiaggine al nascosto tatto della tua medicina, e la vista, offuscata e ottenebrata della mia mente, guariva. All'acre collirio di salubri dolori, ogni giorno di più. Per prima cosa, volendo dimostrarmi come resisti ai superbi ma favorisci gli umili, e con quanta misericordia hai svelato agli uomini la via dell'umiltà, poiché il tuo Verbo si è fatto carne e ha abitato tra gli uomini, mi procurasti tramite un uomo, gonfio di boria, sconfinata, certi libri di filosofi platonici tradotti dal greco in latino, e io vi lessi. Anche se non con queste parole, ma con senso identico e sostenuto da molti e svariati argomenti, che in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, e tutto fu fatto per suo mezzo, e senza di Lui nulla fu fatto. Ciò che fu fatto in Lui è vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non la compresero. E l'anima dell'uomo, pur essendo testimone della luce, non è luce essa stessa, ma il Verbo, Dio, egli è la vera luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, ed era in questo mondo e per mezzo suo fatto il mondo, e il mondo non lo conobbe. Che invece è venuto nella sua casa, e i suoi non l'hanno accolto, ma a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, credendo nel suo nome, questo lì non lo lessi. Ugualmente vi lessi che il Verbo Dio non è nato da carne, né da sangue, né da volontà d'uomo, né da volontà di carne, ma da Dio stesso. Che invece il Verbo si è fatto carne e ha abitato tra noi, questo lì non lo lessi. Scoprì, lo riconosco in quei testi, detto in modi vari e diversi, che il Figlio, essendo conforme al Padre, non ritenne un'usurpazione di essere uguale a Dio, poiché lo è per sua natura. Che invece annientò se stesso, prendendo forma di servo, fatto a somiglianza di uomo e mostrandosi in aspetto di uomo, e si umiliò ubbidendo fino alla morte di croce, e per questo Dio lo innalzò dai morti e gli diede il nome che sovrasta ogni nome, affinché al nome di Gesù si spieghi ogni ginocchio in cielo e in terra, negli inferi, e in ogni lingua confessi che il Signore Gesù è nella gloria di Dio Padre. Questo quei libri non l'hanno. Che prima d'ogni tempo e al di sopra d'ogni tempo esista immutabile il Figlio tuo unigenito a te coeterno, e che alla sua pienezza attingano le anime per essere beate, e che per essere sapienti si rinnovino partecipando di quella sapienza che è in sé, permane, questo c'è. Che invece nel tempo stabilito egli è morto per gli empi, e tu non hai risparmiato il tuo unico figlio, ma l'hai consegnato per noi tutti? Questo non c'è. Hai nascosto infatti queste cose ai sapienti e le hai svelate ai piccoli, affinché venissero a lui i sofferenti, gli oppressi, ed egli li riconfortasse. Poiché è mite e umile di cuore, e guida i miti nella giustizia, e insegna ai mansueti le sue vie, vedendo la nostra umiltà e la nostra sofferenza, e rimettendo tutti i nostri peccati, Quanti invece dall'alto del coturno d'una dottrina che si crede sublime non lo sentono dire: imparate da me, perché sono mite e umile di cuore, e troverete la pace per le vostre anime. Anche se conoscono Dio, non lo glorificano e ringraziano come Dio, ma si perdono nelle loro farneticazioni e si oscura il loro cuore insipiente. Dicendosi sapienti, diventano stolti. E ammonito da quegli scritti a tornare in me stesso, entrai nel mio intimo, sotto la tua guida, e ci riuscii, poiché ti facesti mio sostegno. Entrai e vidi, con l'occhio della mia anima, quale che fosse, al di sopra di quel medesimo occhio della mia anima, al di sopra della mia mente, una luce immutabile, non questa, comune, visibile a ogni carne, e neppure dello stesso genere, ma più grande, come se questa splendesse molto, molto più intensamente e tutto occupasse con la sua grandezza. No, non era questa, ma qualcosa di diverso, di completamente diverso da tutte le nostre. E non stava al di sopra della mia mente come l'olio sull'acqua o il cielo sopra la terra, ma stava sopra perché mi aveva fatto. E io stavo sotto perché da lei ero stato fatto. Chi conosce la verità conosce lei. E chi conosce lei conosce l'eternità. L'amore la conosce. O eterna verità, o vera carità, o cara eternità, tu sei il mio Dio. A te sospiro giorno e notte. E la prima volta che ti conobbi, tu mi innalzasti a te affinché vedessi che c'era da vedere. Ma io non ero ancora in grado di vedere. E riverberasti l'infermità del mio sguardo, folgorandomi con i tuoi raggi, e tremai d'amore e d'orrore, e mi scoprii lontano da te, in una plaga di totale diversità, e mi pareva di udire la tua voce dall'alto: sono cibo dei grandi, cresci e ti ciberai di me, ma non mi trasformerai in te come cibo della tua carne, tu ti trasformerai in me. E seppi che a causa della sua cattiveria hai ammaestrato l'uomo, e come una ragnatela hai consunto l'anima mia, e dissi: forse che la verità non esiste, dal momento che non si trova né negli spazi finiti né in quelli infiniti? E tu gridasti da lontano: anzi, io sono colui che sono. E io udii, come si ode dal cuore, e non avevo alcun motivo di dubitare, e avrei dubitato più facilmente della mia vita che dell'esistenza della verità, che vediamo comprendendola dalle opere del creato. E volsi lo sguardo alle cose che sono al di sotto di te, e vidi che esse né sono del tutto, né del tutto non sono. Sono, poiché provengono da te, ma non sono, perché non sono ciò che tu sei. Infatti è veramente solo ciò che rimane immutabile. Ma il mio bene è stare unito a Dio, poiché se non resterò in lui, non riuscirò nemmeno a restare in me stesso. Egli, invece, rimanendo in sé, rinnova ogni cosa. E tu sei il mio Signore, perché non hai bisogno dei miei beni. E mi fu chiaro che le cose che si corrompono sono buone, già che non si potrebbero corrompere se fossero sommamente buone, né se fossero non fossero buone. Se fossero infatti sommamente buone, sarebbero incorruttibili, e se non fossero affatto buone, non vi sarebbe in esse nulla di corruttibile. La corruzione infatti è un danno, e se non c'è riduzione di bene, non c'è danno. Perciò, o la corruzione non danneggia ciò che non può essere, oppure ciò che invece è certissimo, tutte le cose che si corrompono sono private di un bene. Se però fossero private di tutto il bene, non sarebbero affatto. Se invece fossero e non potessero corrompersi, sarebbero migliori perché resterebbero incorruttibili. Ma potrebbe esserci qualcosa di più mostruoso del dire che dopo aver perso tutto il bene sono diventate migliori? Se dunque venissero private di tutto il bene, non sarebbero affatto. E dunque, finché sono buone. Perciò, quali che siano, sono buone. E quel male di cui mi chiedevo di dove venisse non è una sostanza, perché se fosse una sostanza sarebbe buono. Vidi dunque e mi fu chiaro che tu hai fatto tutte le cose buone e che non vi sono affatto sostanze che tu non abbia fatto. E poiché non hai fatto le cose tutte uguali, è per questo che esse sono, in quanto singole, buone, in quanto tutte insieme, molto buone, poiché il Dio nostro ha fatto tutte le cose molto buone. E in te il male non c'è affatto, ma non solo in te, ma in tutta la creazione, perché fuori di te non c'è nulla che possa irrompervi e corrompervi l'ordine che gli ha imposto. Tra le parti poi del creato ve ne sono che non si adattano a certe altre e per questo sono ritenute cattive. Ma le stesse a certe altre si adattano e perciò sono buone. E sono buone in se stesse. E tutte quelle che non si adattano tra loro si adattano alla parte inferiore del mondo, che chiamiamo terra, la quale ha il suo cielo nuvoloso e ventoso, che le si adatta perfettamente. Mi guarderò bene a questo punto dal dire: ah, se tali cose non fossero! Poiché, se anche non ne scorgessi altre, potrei sì desiderarne di migliori, ma non certo rifiutarmi di lodarti già solo per queste. Che ti si debba lodare dimostrano sulla terra i draghi e tutti gli abissi, il fuoco, la grana, la neve, il ghiaccio, i soffi di tempesta, esecutori della tua parola, i monti e tutti i colli, gli alberi da frutta e tutti i cedri, le fiere e le mandrie tutte, i rettili e i volatili pennuti e i re della terra e tutti i popoli, i principi e tutti i giudici della terra, i giovani, le vergini, i più vecchi coi più giovani, lodino il tuo nome. E poiché anche in cielo ti lodano, lodino te, Dio nostro, dall'alto dei cieli tutti i tuoi angeli, i cieli dei cieli e le acque che sono al di sopra del cielo, lodino il tuo nome. E rivolsi lo sguardo alle altre cose e vidi che ti debbono la loro esistenza, che tutto ha termine in te, ma in modo diverso, non come nello spazio, ma in quanto tieni tutto nella verità, come in una mano. E tutto è vero in quanto è. E non vi è nulla di falso, se non quando si crede che esista ciò che non è. E vidi che ciascuna cosa si adatta non solo al proprio luogo, ma anche al proprio tempo, e che tu, che sei il solo eterno, non hai cominciato a operare dopo infiniti periodi di tempo, poiché ogni periodo, passato o futuro, non potrebbe né andare né venire se tu non fossi attivo e permanente. E capii per esperienza che non è sorprendente che al palato non siano sia penoso perfino il pane, così gradevole al sano, e agli occhi malati sia odiosa la luce, così amabile ai buoni. Anche la tua giustizia è sgradita ai malvagi, e tanto più la vipera e il vermiciattolo che hai creato buoni, e adatti alle parti inferiori del tuo creato, alle quali i malvagi stessi più si adattano quanto meno ti somigliano, mentre più si adattano alle superiori quanto più ti somigliano. E cercai cosa fosse la malvagità, e trovai che non era una sostanza, bensì la perversione della volontà staccatasi dalla sostanza somma, te, Dio, per piegarsi verso le cose più infide, rigettando le sue interiora tutta gonfia di fuori. E mi stupivo di amare proprio te, non più un fantasma invece tua. Ma non gioivo stabilmente del mio Dio. Rapito verso di te della tua bellezza, subito ero strappato a te dal mio peso e precipitavo gemendo tra le cose di questo mondo. E questo peso era la consuetudine della carne. E cercando dunque la ragione per cui apprezzavo la bellezza dei corpi, sia celesti che terrestri, e con quali argomenti potessi giudicare correttamente su cose mutevoli, affermare questo deve essere così, quest'altro no. Cercando, dicevo, su quelle basi, giudicavo, quando così giudicavo, avevo trovato l'immutabile e vera eternità della verità al di sopra della mia mente mutabile. E così, per gradi, passando dai corpi all'anima, che sente attraverso il corpo e di qui alla sua forza interiore, cui i sensi corporei comunicano la realtà di fuori, che è anche il limite a cui arrivano le bestie, e poi di qui ancora alla facoltà raziocinante, al cui giudizio è sottoposto tutto ciò che è colto dai sensi corporei, questa, riconoscendosi a sua volta in me soggetta a mutamento, si sollevò all'intelligenza di se stessa e distolse il pensiero dalle sue abitudini, sottraendosi alla folla delle fantasie contraddittorie per scoprire da quale luce fosse inondata quando proclamava senza alcuna esitazione che l'immutabile era preferibile al mutabile, come facesse ad avere la nozione stessa di immutabile, se infatti non l'avesse in qualche modo avuta, in nessun modo avrebbe potuto anteporla con tanta certezza a quella di mutabile, e pervenne nella folgorazione di una trepidante visione a ciò che è. Vidi allora che le tue invisibili perfezioni le vediamo comprendendole dalle opere del creato. Ma non riuscì a fissarvi lo sguardo. E restituito da rinnovata spozzatezza alla vita consueta, non portavo in me nient'altro che un ricordo innamorato. E come il rimpianto del profumo di cibi che non ero ancora in grado di mangiare. Io però pensavo diversamente e guardavo a Cristo, mio Signore, come a un uomo d'eccellente sapienza e al quale nessuno poteva stare alla pari, e soprattutto in quanto miracolosamente nato da una vergine. Perfetto esempio di come si debbano disprezzare le cose di questo mondo al fine di conseguirne l'immortalità. Ecco, mi sembrava essersi meritato, per volere della provvidenza divina che ha cura di noi, una straordinaria autorità di magistero. Ma quale mistero si racchiudesse nel Verbo fatto carne, non ero in grado nemmeno di sospettare. Di lui sapevo soltanto quello che tramandano le scritture, che mangiò e bevve, dormiva, camminò, fu gioioso e triste, conversò, e che quella carne non avrebbe potuto unirsi al suo Verbo se non con un'anima e in una mente di uomo. Di fatto, il muovere ora volontariamente le membra del corpo, ora non muoverle, il provare ora un determinato sentimento, ora non provarlo, l'esprimere ora a parole massime sapienti, ora starsene in silenzio, sono tratti tipici della mutevolezza dell'anima e della mente. Se si fossero scritte di lui tali cose mentendo, allora tutto cadrebbe in sospetto di menzogna e in quei testi non resterebbe più niente per il genere umano della salvezza che viene dalla fede. Poiché invece sono scritti veritieri, riconoscevo in Cristo l'uomo completo, non solo un corpo d'uomo, oppure un'anima col corpo ma senza la mente, ma un uomo reale, che però ritenevo di dover preferire agli altri non in quanto verità fatta persona, ma per l'alto grado di eccellenza della sua natura umana e per una più perfetta partecipazione alla sapienza. Ma allora, dopo aver letto quei libri dei platonici, avendovi imparato a cercare la verità incorporea, compresi che le tue invisibili perfezioni le vediamo comprendendole dalle opere del creato, avvertì, pur con interiore contrasto, la verità che le tenebre della mia anima mi impedivano di contemplare, e fui certo che tu sei e sei infinito, senza per questo occupare spazi finiti o infiniti, e sei veramente tu che sei sempre l'identico te stesso, mai altro o diverso, in nessuna tua parte o movimento, e che tutto deriva da te per il solo fatto solidissimo che esiste. Di questo ero certo, ma anche troppo debole per goderti. Io chiacchieravo, dandomi arie d'esperto, e se non avessi cercato la tua via in Cristo nostro Salvatore, più che essere un perito, sarei perito. Già avevo preso a voler passare per sapiente. Mentre ero pieno del mio castigo e non piangevo, anzi, ero tutto tronfio della mia sapienza. Ma dov'era infatti quella carità che edifica sul fondamento dell'umiltà, che è Cristo Gesù? E quando mai quei libri me l'avrebbero insegnata? Libri nei quali credo che tu abbia voluto che mi imbattessi prima di meditare sulle tue scritture, affinché mi restasse impresso nella memoria quanto m'avessero affascinato e più tardi, ammansito dai tuoi libri e guarite le mie ferite dal tocco delle tue dita, scorgessi e distinguessi la distanza che corre tra presunzione e confessione, tra chi vede dove si deve andare, ma non per dove, e la via che conduce non solo a contemplare la patria beatificante, ma anche ad abitarla. Già che se io mi fossi formato sin dal principio alle tue sante scritture e tu mi avessi fatto assaporare, praticandole, tutta la loro dolcezza, e solo dopo mi fossi imbattuto in quei volumi, essi mi avrebbero forse strappato al fondamento della pietà, o forse, pur conservando saldamente i sentimenti salutari che avevo assorbito, avrei finito per credere che si potesse ricavare altrettanto bene dal solo studio di quei libri. E così, avidissimamente, mi gettai su venerabili scritti del tuo spirito, innanzitutto sull'apostolo Paolo, e tutte le difficoltà dei passi nei quali la lettera del testo m'era sembrata talvolta in contraddizione con se stessa e in disaccordo con le testimonianze della legge e dei profeti, si dissolsero, e quei casti eloqui si mutarono in unico volto, e appresi a esultare con tremore. Ecco, li presi in mano e trovai che tutto ciò che di vero avevo letto in quegli altri era qua detto con l'approvazione della tua grazia, affinché chi vede non si vanti, quasi che non abbia ricevuto non solo ciò che vede, ma la facoltà stessa di vedere. Che cosa possiede, infatti, che non abbia ricevuto? E non solo imparai a vederti, immutabile quale sei, ma anche guarisca per possederti. E chi è troppo lontano per vederti, si metta almeno sulla via che gli consenta di raggiungerti, vederti, possederti, poiché l'uomo, pur compiacendosi della legge di Dio secondo l'uomo interiore, cosa farà dell'altra legge che lotta nelle sue membra contro la legge della sua mente che lo riduce prigioniero della legge del peccato che è nelle sue membra? Già che tu sei giusto, Signore, ma noi abbiamo peccato, commesso iniquità, empiamente agito, e la tua mano è gravata su di noi, e giustamente fummo consegnati all'antico peccatore, al principe della morte, poiché egli ha persuaso la nostra volontà a conformarsi alla sua volontà, quella che lo aveva spinto a non restare nella tua verità. E che farà, dunque, il povero uomo? Chi lo libererà da questo corpo di morte, se non la tua grazia? Per Gesù Cristo nostro Signore, che generasti coeterno e creasti al principio delle tue vie, nel quale il principe di questo mondo non trovò nulla che non fosse degno di morte, eppure lo uccise, e così fu annullato il documento che era contro di noi. Questo quegli scritti non lo dicono. Non dicono quelle pagine il volto della tua pietà, le lacrime della confessione, il tuo sacrificio, lo spirito afflitto, il cuore contrito e umiliato, la salvezza del popolo, la città promessa, sposa, il pegno dello Spirito Santo, il calice del nostro riscatto. Nessuno lì canta «Non sarà sottomessa a Dio l'anima mia». Da Lui viene la mia salvezza, giacché è Lui il mio Dio e la mia salvezza, il mio sostegno. Più non mi muoverò. Nessuno sente il suo invito «Venite a me, voi che siete affaticati». Disdegnano il suo magistero, poiché è mite e umile di cuore. Tu infatti hai celato queste cose ai sapienti e ai saggi e le hai rivelate ai piccoli. Una cosa è vedere la patria della pace da una cima selvosa e non trovare la strada per raggiungerla e tentare vanamente i dirupi circostanti tra gli attacchi e gli agguati di disertori fuggiaschi guidati dal loro capo, leone e drago. Tutt'altra cosa, tenere la via che porta là, difesa dalla sollecitudine dell'imperatore celeste, al riparo da scorrerie di disertori della milizia celeste. La fuggono, infatti, come il supplizio. Queste cose mirabilmente m'entravano nelle viscere quando leggevo l'ultimo dei tuoi apostoli e consideravo le tue opere e ne tremavo.